Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Oggi parliamo di una manifestazione, un momento di protesta che si terrà nel primo pomeriggio a Roma davanti a Montecitorio. Sembrerà un argomento insolito per Salva Danaio, per la verità ci occupiamo spesso di situazioni di protesta a vario titolo, di consumatori, associazioni ed altro. In realtà vedremo che il passo che ci porta da questo evento ai problemi concreti e alle difficoltà delle famiglie italiane che accompagniamo ogni giorno è molto breve. Allora, Unirec, l'Unione Nazionale delle Imprese a Tutela del Credito, ha organizzato insieme all'Associazione dei Consumatori Adiconsum un presidio in piazza Montecitorio, quindi proprio davanti al Parlamento italiano, oggi alle 14 per manifestare la propria contrarietà alle proposte contenute nel disegno di legge di riforma del settore recupero credito attualmente in discussione in Parlamento, calendarizzato proprio per oggi. Le due organizzazioni insieme, anche questo è un aspetto inedito che magari avremo modo di commentare nel corso della trasmissione, contrastano in modo particolare la volontà, dicono, di annullare le attuali regole di controllo del settore delle agenzie di recupero crediti. Lo ricordiamo, si tratta di quelle imprese legalmente autorizzate a svolgere attività di recupero dei crediti insoluti per conto terzi. Quindi, nella sostanza, non avete pagato la rata per l'acquisto del telefonino, naturalmente c'è un creditore che bussa la vostra porta, non bussalo direttamente, ma magari manda un'agenzia appunto di recupero. Quindi ai primi sintomi di insolvenza queste società sono in grado di intervenire tempestivamente per stimolare il debitore a definire la propria pendenza. Unirec ed Adiconsum sostengono la necessità di salvaguardare la professionalità degli addetti, la trasparenza nei confronti dei consumatori in un settore così delicato. Poi vi darò qualche cifra per spiegarvi di quale numeri stiamo parlando, di che fenomeno, di che settore anche stiamo parlando, soprattutto in tempi di crisi. Se da un lato queste agenzie possono aiutare professionalmente le famiglie in difficoltà attraverso la gestione del debito, dall'altro il cattivo incontro con un operatore disonesto potrebbe creare ulteriori disagi ai cittadini e screditare l'intero settore. Salva Danaio racconta loro oggi questa protesta. E soprattutto vogliamo ancora raccogliere le testimonianze degli ascoltatori che si sono rivolti ad agenzie di questo tipo, anzi più spesso capita il contrario, è l'agenzia che si rivolge naturalmente al consumatore inadempiente. E allora, vi siete mai trovati ad avere a che fare con un'agenzia di recupero crediti? Che esperienze avete avuto? Raccontatecelo all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666. Siamo su Facebook Salvadanaio-Radio24 e su Twitter @Salvadanaio24, quindi potete davvero interagire con noi in ogni modo possibile. Con noi questa mattina ci saranno i due diretti interessati alla manifestazione di oggi pomeriggio: Gianni Amprino, presidente dell'Unirec, appunto l'Unione delle Imprese di Recupero. Presidente Amprino, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei. Pronto con striscioni, manifesti, che cos'altro vi porterete nel pomeriggio a Montecitorio? Perché anche questo è un aspetto inedito da raccontare. È la prima volta che un'organizzazione aderente a Confindustria forse si cimenta in una manifestazione un po' rumorosa, o no? Ma guardi, noi abbiamo organizzato questa giornata e faremo un presidio formale davanti al Parlamento per manifestare il dissenso rispetto all'attuale testo di riforma del nostro settore. Abbiamo presentato le proposte emendative e abbiamo pensato di farci sentire in questo modo, anche per sapere se qualcuno le condivide o meno. Sì, è una novità, sicuramente ne avremmo fatto volentieri a meno. È anche una novità, appunto, una condivisione piena di una manifestazione di protesta da parte di un'organizzazione che rappresenta le aziende, un'organizzazione che rappresenta i consumatori. Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, buongiorno anche a lei, benvenuto. Buongiorno. Allora, adesso riandiamo a riepilogare con la nostra scheda tutta la storia della quale parliamo oggi. Prima però un attimo rapidamente la borsa, perché molti ascoltatori si lamentano quando la faccio frettolosamente ad inizio di Salva Danaio, quindi accontentiamo tutti. Abbiamo ribassi generalizzati oggi, quindi magari per questo raccontiamola rapidamente: -0,6% a Milano, -0,37% a Parigi, -0,35% a Francoforte, Londra -0,49%. Il quadro è negativo questa mattina per tutta una serie di fattori, naturalmente ancora una volta riguardiamo alla Grecia e alla Spagna. Ieri, al termine dell'Eurogruppo, i leader europei hanno richiesto alla Grecia un impegno convinto nel presentare entro la settimana prossima la lista degli interventi richiesti al fine di ottenere la nuova tranche di aiuti internazionali. Ieri è andata la signora Merkel ad Atene e non è stata proprio accolta da applausi e grande consenso, ma questo insomma lo potevamo anche immaginare. Dagli Stati Uniti oggi aspettiamo il beige book della Federal Reserve, in sostanza il bollettino mensile della Banca Centrale Americana. Ci sono i dati delle prime trimestrali, come sempre ad inaugurare la stagione a Wall Street è Alcoa, il colosso dell'alluminio, che ha riportato perdite per 143 milioni di dollari nel periodo luglio-settembre. Non sono stati dati particolarmente deludenti, ha preoccupato di più il profit warning, l'allarme utili lanciato dal colosso petrolifero statunitense Chevron Texaco. Stamattina c'è stata un'asta di titoli di Stato italiani. Il Ministero dell'Economia ha venduto BOT a 3 mesi e ad 1 anno per 11 miliardi di euro complessivi, ma ha dovuto riconoscere tassi di interesse che di nuovo tornano a salire. Sul titolo a 3 mesi il rendimento è salito allo 0,76% dallo 0,70% dell'asta di settembre. Sul titolo annuale il rendimento è salito all'1,94% dall'1,69% precedente. Questo è il mercato di oggi. Noi però andiamo invece ad un altro settore economico molto importante per il nostro paese. Certo che quando ci imbattiamo in un'agenzia di recupero crediti non è che siamo molto contenti, per la verità questi in questo momento sono contenti per loro naturalmente, un po' meno contenti per le famiglie che sono in difficoltà, ma in questo momento lavorano molto, ma c'è una riforma in arrivo che potrebbe così in qualche maniera alterare, almeno secondo il punto di vista delle dirette interessate, la loro attività. Sentiamo in cosa consiste. Le agenzie di recupero credito sono imprese che intervengono nel caso in cui una persona si ritrovi nell'impossibilità di saldare un debito. Contattano l'insolvente con il compito di stimolarlo a rimettere in regola la propria posizione e sono tenute a mettere in atto le strategie più efficaci per portare a termine il pagamento. Un aiuto professionale nella gestione del debito può essere importante per una famiglia in difficoltà. Al tempo stesso, però, c'è il rischio di imbattersi in chi professionale non è, ma al contrario si potrebbe rivelare un po' disonesto. Le società potrebbero cercare solo il proprio profitto, incassando percentuali e tariffe, senza mettere in atto un piano realmente efficace. Per questo sono necessari una regolamentazione e un monitoraggio molto seri. Le regole che disciplinavano il lavoro di queste agenzie, però, stanno cambiando. Il Parlamento sta attualmente discutendo un disegno di legge per riformare il settore e le proposte messe in campo non piacciono a Unirec, l'associazione che rappresenta l'85% di queste società, né all'Associazione dei Consumatori Adiconsum. Le organizzazioni puntano il dito contro la poca chiarezza nella definizione di requisiti e modalità necessari per svolgere l'attività. Vedono a rischio la salvaguardia della professionalità dei propri addetti da un lato e la trasparenza nei confronti dei consumatori dall'altro. Criticano in particolare l'abolizione della licenza e l'istituzione di un nuovo organismo di controllo, che andrebbe a sostituire gli enti bilaterali rappresentativi delle associazioni degli imprenditori e dei consumatori, che attualmente svolgono questo compito. Contestano inoltre che il compito di vigilanza sull'organismo sia attribuito al Ministero della Giustizia e non più a quello dell'Interno, istituzione più indicata, sostengono, ad effettuare controllo e prevenzione, anche e soprattutto per contrastare la possibile infiltrazione criminale. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci sono già alcuni ascoltatori che vorrebbero intervenire senza far intervenire direttamente questo amico Vito da Pordenone, che vorrebbe appunto esprimere la sua opinione in diretta. La sintetizzo io perché forse c'è un equivoco di fondo. Vito parla della figura dell'ufficiale giudiziario che recupera crediti per lo Stato, ma dottor Amprino, non stiamo parlando ovviamente della stessa figura. Peraltro lo Stato ha Equitalia, che fa le riscossioni nella maniera anche un po' maldestra che abbiamo visto negli ultimi anni. Voi vi occupate fondamentalmente dei privati o anche per la pubblica amministrazione? Ma noi ci occupiamo prevalentemente di famiglie, quindi di privati o di imprese. Allora, la nostra associazione lavora con 15.000 addetti, 180 aziende, l'85% del mercato, gestendo più di 32 milioni di pratiche. Ecco, 32 milioni di pratiche ci vengono affidate dalle più importanti banche, società finanziarie, società di leasing, di telecomunicazioni, di energia, che non ci affiderebbero mai questo bene più prezioso che hanno, quindi i loro clienti, se non fossero consapevoli di tanta professionalità insieme ai risultati del recupero. Quindi i nostri clienti sono prevalentemente banche e imprese. Guardi, ci sono 15.000 addetti che ogni giorno chiamano e visitano decine di migliaia, milioni di famiglie e di imprese. Credo che pochi come loro abbiano il reale polso della situazione economica delle imprese e delle famiglie, e cercano di trovare soluzioni bonarie, perché vanno sicuramente, certo, a visitare famiglie e imprese che sono andate in ritardo con il pagamento di una rata di un mutuo, di un prestito, di un contratto di leasing o di una bolletta. Quindi hanno una difficoltà magari perché se una famiglia ha perso il lavoro, il suo datore di lavoro non gli paga lo stipendio, o se un'impresa magari a sua volta per un ritardato pagamento. Ecco, le nostre persone sono lì con questi soggetti a cercare con empatia, con professionalità, di trovare una soluzione che non li faccia precipitare verso una situazione ancora più difficoltosa, quindi proprio con un'azione legale che poi scatena con gli ufficiali giudiziari, quindi entra ancora più invasivamente. Quindi di fatto il nostro è un intervento bonario nei confronti di imprese e famiglie, per cercare di trovare una soluzione o rappresentare a chi ci dà il lavoro l'oggettiva difficoltà a far fronte al debito o al finanziamento, quindi eventualmente trovare una soluzione, certo, che preveda il ribassamento della rata, insomma. E infatti la riorganizzazione, la ristrutturazione nella sostanza della propria condizione debitoria, tant'è vero qualche operatore del settore, io conosco molte società che aderiscono alla organizzazione che le presiede, Presidente, e tra l'altro molte volte scherziamo anche sul nome che si dà alla figura che poi entra nella nostra casa e che ci chiede di ripianare una condizione appunto finanziaria difficile. Non siete più gli esattori, ma adesso qualcuno mi indica di chiamarvi negoziatori di crediti problematici. La sostanza non cambia, non avete comunque neanche più forse i metodi perentori con i quali vi hanno dipinto per tanto tempo, no? Adesso, come diceva giustamente lei, si cerca, anche alla luce delle grandi difficoltà che le famiglie vivono, di ripianare con senso di responsabilità le condizioni difficili di chi le vive. Assolutamente sì, ripeto, l'obiettivo è quello sicuramente di aiutare chi ci dà il lavoro, che è un sistema anche questo in difficoltà. Banche, società finanziarie hanno i loro problemi con i bilanci, con gli accantonamenti per i clienti insolventi, hanno ridotto le erogazioni. Noi siamo sicuramente qui per cercare di aiutare loro, che sono i committenti, però il recupero del credito passa molto, anzi quasi sempre, con il recupero del cliente e quindi nel trovare una soluzione bonaria che porti al pagamento o porti a dare quelle informazioni utili per la ristrutturazione del debito, cosa di cui poi si occupa la società mandante. E infatti, spesso siamo dipinti come cattivi, però in realtà il nostro è un settore regolamentato, il garante per la privacy ha dettato delle regole precise in termini di quando chiamare, quante volte poter sollecitare un cliente, in che orari organizzare una visita o un incontro, quindi insomma lecitava prima Equitalia. Ecco, il nostro è un sistema che gestisce 32 milioni di pratiche, abbiamo istituito con i consumatori delle buone prassi, c'è un numero verde cui i cittadini possono telefonare se ci sono dei comportamenti adeguati. A Equitalia tirano le bombe, pochi giorni fa abbiamo visto un concessionario che si è appropriato dei soldi dei cittadini e dei comuni. Ecco, il nostro è un sistema che questi problemi, voglio dire, non ce l'ha. Poi se c'è da migliorare qualcosa, ben venga. Allora, però vediamo adesso, certo, vedremo adesso perché allora tutto questo sistema appunto rischia di essere compromesso se passasse il disegno di legge sulla tutela dei crediti, perché però tra l'altro si chiama anche così, all'esame appunto del Parlamento. Il recupero dei crediti, un mondo che paradossalmente per la crisi finanziaria è numericamente in crescita in questo momento, perché sono molte le pratiche che le agenzie devono gestire, perché ci sono molte famiglie, molte piccole imprese che non riescono ad onorare i propri impegni finanziari, per cui chiaramente i creditori di queste famiglie o imprese demandano a figure terze praticamente l'attività di recupero. Oggi il mondo del recupero crediti protesta davanti a Montecitorio perché sta arrivando una riforma che in realtà riorganizzerebbe completamente il sistema senza stessa tutela, dicono loro, né per le imprese né per i consumatori, su cui poi chiaramente le conseguenze ricadrebbero. Allora, questa protesta, peraltro, come abbiamo annunciato in precedenza, oltre ad essere organizzata da diretti interessati, l'Unirec, l'Unione delle Imprese a Tutela del Credito, è appoggiata anche, una cosa veramente curiosa questa, dalle associazioni dei consumatori, nella fattispecie da Adiconsum. Pietro Giordano, buongiorno. Prima di dare la voce ai nostri ascoltatori, ce ne sono tanti che vogliono intervenire questa mattina, vorrei sentire come mai c'è questa iniziativa anche piuttosto inedita, appunto, di sostegno alle imprese in una iniziativa di protesta. Giordano, buongiorno. Buongiorno. Di nuovo. C'è questo sostegno perché siamo molto, ma molto preoccupati come Adiconsum, perché la riforma liberalizzerebbe selvaggiamente, io aggiungo, un settore che è molto sensibile e che riguarda non solo i redditi dei cittadini e delle famiglie, ma riguarda anche l'ordine pubblico. Si tratta di 34 milioni di euro annui di recupero, quindi una massa di denaro enorme, e se guardiamo... Miliardi, quindi una massa enorme. Se guardiamo quello che sta avvenendo e che è all'attenzione delle cronache, oltre che della magistratura, l'agenzia di debito per cui un titolare viene messo, come dire, in detenzione cautelare perché accusato di contiguità con il clan dei Casalesi, se guardiamo quello che sta succedendo con Tributi Italia, cioè aziende non sotto controllo diretto, è chiaro che la preoccupazione diventa enorme, perché l'infiltrazione mafiosa e camorristica su una massa di denaro così enorme può determinare un interesse, come lo sta già determinando, da parte della parte malata del cancro di questa società. Ecco perché noi siamo convinti che debba rimanere all'interno, sotto il controllo del Ministero dell'Interno e quindi sotto il controllo delle questure e della polizia, e ove ci fossero situazioni diciamo come quelle descritte, l'intervento della polizia e della questura e quindi della magistratura diventa assolutamente indispensabile. Ecco perché siamo profondamente preoccupati, perché la riforma darebbe il via alla liberalizzazione selvaggia, la definisco così, e quindi chiunque potrebbe infiltrarsi e trattare masse di denaro enorme e quindi non avere più un codice etico, non avere più un controllo e passarlo al Ministero della Giustizia. Io non voglio fare battute, ma i consumatori sanno, le famiglie sanno che cosa significa oggi una causa in tribunale, quanto dura, che cosa succede, che controllo potrebbero avere queste agenzie da un ministero che è già operato di per sé rispetto al contenzioso nei tribunali. Tra l'altro, già qualche, come dire, non la vorrei chiamare infiltrazione, ma qualche situazione strana e stravagante sta già sorgendo, perché basti vedere le debt agency che stanno sorgendo nel nostro paese con l'obiettivo di andare a interessarsi direttamente delle famiglie in difficoltà, proponendo loro di poter ripianare la situazione finanziaria difficile. Ma non sono le agenzie di recupero crediti, e questo vorrei specificarlo molto chiaramente, perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma quelle agenzie che voi avete chiamato a parlare stamattina, quindi Unirec, che sono le stesse che, se io ho bisogno, mi chiedono 200 euro per istruire una pratica qualora dovessi restituire magari un debito di 100 e non ce la faccio, vado di nuovo, Giordano, mi scusi, ad Amprino. Vogliamo fare perché c'è questo equivoco proprio da parte di molti ascoltatori. Chiariamo proprio questo: le debt agency che sono sorte ultimamente, in particolar modo una che è sicuramente la più grossa, è un'attività che è completamente diversa dalla nostra. Cioè, noi cerchiamo una soluzione bonaria per mantenere il cittadino, il consumatore. Ma soprattutto non vi chiama il consumatore, vi chiama l'azienda. Se Enel deve recuperare 10 bollette di 10 famiglie che non pagano, è Enel che vi commissiona il lavoro, non è la famiglia, esatto, che vi paga e vi dice: guarda, aiutami a pagare ad Enel la bolletta in arretrato. Ecco. E Enel che ci dà l'incarico, sono le banche, le società di energia e di telecomunicazione. Noi andiamo dal debitore, dal cittadino, per cercare una soluzione bonaria per far mantenere il cliente all'Enel, alla società di telecomunicazione o alla banca. Cioè, non vendiamo fumo o sogni, cioè, troviamo soluzioni reali e chiare, il pagamento di una qualche rata. Le agenzie debiti invece ingenerano false aspettative, sottraendo risorse economiche, perché poi si fanno pagare già subito per studiare la pratica, 300 o 400 euro, ipotizzano soluzioni non realizzabili, quindi insomma non c'entrano nulla col nostro né con Unirec né proprio con l'attività in genere. È proprio questo un caso di settore non regolamentato. Ecco, le faccio allora sentire. Ci sono e sono regolamentate. Certo. In Italia non sono regolamentate. E quindi vanno regolamentate o mantenendo la legislazione attuale o comunque non, come dire, cercando di seguire bene il percorso dell'attuale riforma e precisandola nei contorni. Franco dalla provincia di Pesaro, Urbino, credo che forse lei volesse proprio intervenire su questo argomento, forse glielo abbiamo anche probabilmente anticipato. Franco, ci sente? Sì, pronto. Sì. Buongiorno. Senta, io chiamavo perché io ho avuto delle esperienze con queste agenzie di credito, del recupero credito. Io ho un prestito con Agos Ducato e anche una carta di credito. Adesso, oggi esattamente, mi è arrivato l'estratto conto e c'è scritto a debito e spesso di esazione, 50 euro. Cioè, io ho pagato poco fa 120 per la rata della carta e mi è arrivato adesso che sono altri 50 euro per recupero credito. Un mese fa mi è arrivato uno di queste agenzie qui, perché alla fine non si sa di dove vengono, questi qui ti chiamano a qualsiasi ora del giorno, è venuto e mi ha detto: lei deve pagare una rata arretrata del prestito, che era agosto, e quella di settembre. Allora io ho detto: ma scusa, ma settembre ancora non la devo pagare. Certo, quindi il 20, oggi è 5, e lui mi dice: il tutto sono 560 euro. E io dico: ma scusa, perché? Ogni rata sono 223, per 2 fanno 446. Allora lui non mi diceva niente. Io sono andato a vedere e c'era spese domiciliari 50 euro più 50. E io l'ho chiesto: ma scusa, come faccio io a pagarti 100 euro perché tu sei venuto qui a chiedermi? Io non ti ho detto di venire. Almeno le ha rilasciato una certificazione di questo pagamento che richiedeva, Franco, oppure gliela dovute dare così in contanti, volanti, no? No, io le potevo pagare in contanti, e lui ho detto: guarda, io adesso i soldi non li ho, io la prossima settimana pago la rata d'agosto, che è quella scaduta, e quella di settembre aspetto a pagarla. Ecco. Cioè, le ho detto, lei non deve venire più qui a casa mia. Franco, aspetti lì, la faccio sentire, la faccio parlare direttamente col presidente di questa associazione, che teoricamente rappresenta anche questo individuo con cui Franco si è imbattuto, Amprino. È tutto questo quello che voi volete combattere? Ma guardi, noi vogliamo combattere le cattive Ma intanto prassi. Le sembra possibile che costi 50 euro una visita di un recuperatore direttamente a casa, o comunque qualora anche ci fosse un contatto fisico, perché prima c'è quello telefonico per appunto immediatamente far partire l'azione di recupero, ma devono chiedere questi soldi queste persone? Ma guardi, noi allora i soldi li chiede in questo caso la Agos, insomma la banca o la società finanziaria, quindi diciamo che c'è un contratto a monte stipulato dove evidentemente, se questa azienda li chiede, è perché contrattualmente sono previsti dal contratto. Se il signore ritiene di essere stato chiamato troppo o troppo insistentemente o in un modo ineducato, o gli siano state richieste delle somme che secondo lui non erano dovute, può tranquillamente chiamare la Agos o direttamente la nostra associazione, posto che la società che lo abbia contattato sia la nostra associazione, che si è dotata di regole precisissime, di un codice deontologico, proprio per contrastare eventuali comportamenti eccessivi. Per cui il suggerimento che do alla persona è di verificare sul contratto se la società finanziaria aveva titolo di richiedere queste somme. E poi se la persona che l'ha contattato è stata eccessiva, l'ha chiamato troppe volte, visto che ci sono dei regolamenti precisi che dicono entro che orari si può chiamare e quante chiamate si possono fare nell'arco di 2 o 3 giorni, di denunciare l'accaduto alla nostra associazione, evidenziando la società, o se no lo pureremo noi stessi. Benissimo. Verificheremo se un iscritto UNIRE che si è comportato male, gli faremo quello che prevede il nostro codice deontologico, altrimenti gli diremo come agire. Addirittura sulle ricevute e sulle eventuali lettere di sollecito che sono mandate, c'è un numero verde al quale si può rivolgere per denunciare questi eventuali comportamenti. Per i 50 euro invece, come ho detto prima, occorre che lui verifichi sul contratto con la finanziaria se sono previsti o meno. Sicuramente la regolamentazione e le regole che già ci sono per migliorare ancora, o quelle che vorremmo noi sono per migliorare ancora però, più eventuali casi eccessivi. Allora, ci facciamo scrivere magari da Franco una mail a salvadanaio@radio24.it che ci circostanzi bene tutta la vicenda. A noi questa storia della richiesta dei 50 euro per la visita domiciliare ci risulta un po', ci suscita qualche perplessità, ma sicuramente so che il presidente Amprino ci darà ragione. Allora, Pietro Giordano di Adiconsum, un'associazione dei consumatori, mi scrive su Facebook, noi lo salutiamo, Luigi Gabriele, che è un esponente appunto di Codici, intervenuto anche nelle ultime settimane nella nostra trasmissione per aiutarci a chiarire le questioni legate al comportamento di Acea su Roma, e chiede di precisare, anzi non ce lo chiede, ce lo scrive, basta: questa manifestazione di oggi di Roma non è appoggiata dalle associazioni dei consumatori, ma solo da Adiconsum, e l'ente bilaterale di cui si parla, quello che voi avete costituito con Unirec, rappresenta appunto solamente Adiconsum e Unirec. Ci sembra più, dice Gabriele, una protesta di interesse di parte, quindi non si può dire che si vogliano difendere i consumatori, anzi forse non proprio i consumatori. Giordano, allora che cosa rispondiamo ai concorrenti? Io rispondo molto semplicemente che intanto noi agiamo e non protestiamo soltanto, quindi se quell'ascoltatore precedentemente sentito ha delle lamentele, come mi sembra abbia, ed è giusto che 50 sì. euro ci sembrano esosi, può mandare un'email a info@ebidec.it o telefonare al nostro numero verde, e l'ascoltatore avrà la soluzione del problema. Perché chi è Ebitec? No, chi è Ebitec? Se ne spieghiamo all'ascoltatore, perché se no li pensa di chiamare. Luigi Gabriele, sostenitore di Batman, ha posto. Vabbè, chiudiamo la parentesi. È così. Va bene. Quindi gli interessi dei consumatori probabilmente vanno fatti in altro modo, come tentiamo di farlo noi. Comunque, allora, dunque, Franco dovrebbe scrivere ad Ebitec. Ebitec è l'ente bilaterale che voi avete costituito insieme ad Unirec. A che cosa serve questa agenzia, questa istituzione? Come la possiamo definire, Giordano? Questo ente è riconosciuto dal Ministero dell'Interno con circolare ministeriale del Capo della Polizia. Non è un ente così che nasce dal nulla, riconosciuto, e le questure si appoggiano a questo ente perché non hanno uomini e forze tali da poter controllare, perché l'ente dà gli certificati liberatori. I certificati liberatori significa che le aziende, per poter operare in questo senso, devono avere il DURC, che come si sa è la messa in regola dei propri lavoratori, devono avere un percorso formativo che professionalizza gli esattori e devono praticare buone pratiche. Ove questo non avvenga, c'è un certificato negativo liberatorio, e quindi le questure vengono allertate rispetto a aziende, diciamo, come definirle, poco corrette per usare un eufemismo, e quindi intervengono immediatamente attraverso i propri organi di polizia. La riforma cancellerebbe la vostra attività, l'attività dell'organismo bilaterale? Prego. La riforma in che maniera interverrebbe sull'attività della bilaterale? Praticamente annulla tutto, bilaterale, sì. Liberalizza, crea un organismo sovrastrutturale che, guarda caso, si chiama bilaterale, perché poi scimmiottare è molto semplice, è un organismo bilaterale che, guarda caso, non è formato più, e il controllo non è più alle questure e non è più agli organi di polizia, dato agli organi di polizia, ma viene dato a una commissione sovrastrutturale che probabilmente si riunirà 2 volte l'anno per poter determinare non si capisce bene che cosa. Invece noi diciamo che è assolutamente necessario, proprio per evitare quello che si diceva, le debt agency ad esempio, che non sono assolutamente normate, e questa riforma a nostro avviso va verso quel tipo di liberalizzazione che produce i guasti con somme aggiuntive al debito da parte dei consumatori. 300 euro sono poche, a noi risulta che ai consumatori queste agenzie di debito hanno chiesto migliaia di euro per poter definire il proprio credito, un credito che si aggiunge ad ulteriore credito, promettendo cose che non si possono assolutamente mantenere, ed essendo vigendo in una assoluta deregulation, per cui si fa consulenza ma si fanno pagare i consumatori. E d'altronde, con tutti i soldi che rappresenta questo fenomeno, perché appunto, ribadisco appunto la cifra che prima ricordavate, 38 miliardi di euro l'anno di recupero crediti, chissà in quanti vogliono mettere le mani in pasta. Devo sentire adesso Vincenzo da Mantova, una scuola. Ascoltatore, adesso non riesco a sentirlo, Maurizio da Piacenza voleva raccontarci che aveva dei debiti con la Findomestica, sono andati a cercarlo perfino dai vicini di casa, non mi pare corretto neanche a noi. Maurizio, quantomeno appunto qua c'è una palese violazione di diritti della privacy, ma davvero qualche volta qualche agenzia forse si appoggia a certi soggetti un po' aggressivi nelle iniziative di recupero. Sento rapidamente Vincenzo da Mantova, poi purtroppo devo già andare verso la conclusione con il presidente Amprino. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo, ecco, dalla provincia di Mantova. Io sono un agente intermediario in prodotti finanziari, per cui cercherò di essere breve. Io credo che gli abusi e le prevaricazioni che gli agenti domiciliari soprattutto fanno per recuperare i crediti siano sostanzialmente sistematiche. Questo è dovuto però, secondo me, per colpa anche delle associazioni di categoria, quindi mi permetto di fare un appunto, ma è una riflessione la mia più che altro. E te la raccogliamo volentieri, certo. Certo, è il fatto che chi va al domicilio non ha una preparazione, non è monitorato e non deve rispondere se non a se stesso o a chi lo ha mandato, che generalmente sono degli uffici legali, degli studi legali che acquisiscono crediti prosoluto, prosolvendo, a seconda come poi funzionano, e non hanno nessun monitoraggio, non solo. Ma questo è dovuto anche al fatto che, secondo me, un altro errore è quello di aver reso incompatibile la funzione del chi è iscritto al ex UIF, adesso sarà OAM, quindi l'organismo che gestisce un po' gli intermediari finanziari, è incompatibile con la funzione di recupero crediti. Vincenzo, secondo devo salutarla, abbiamo capito chiaramente, un minuto e mezzo e devo chiudere. Allora, Amprino, devo necessariamente appunto concludere con lei. Cosa ha ragione il nostro ascoltatore? Insomma, ma allora è proprio vero che ci mandate questi ex galeotti a recuperare i crediti con queste manovre all'insegna dell'abuso e della prevaricazione, come l'ascoltatore diceva? Guardi, allora, partendo dall'annuncio, noi abbiamo visto l'annuncio e sottolineo che è stato messo da un soggetto che, oltre a non avere a che fare nulla con Unirec, proprio neanche fa attività di recupero crediti, è una società di servizi che probabilmente aveva dei suoi crediti da recuperare e ha messo quell'annuncio. Ah, ecco, il titolare, teniamo presente, che ha fondato un partito che si chiama Italia Pulita, basta andare sul profilo Facebook, mi sembra sia in prima pagina con un forcone, per cui si definisce da sola la situazione e l'annuncio. Andiamo all'altro tema, Presidente, perché devo chiudere fra 30 secondi, se no mi tagliano, un commento finale. Tema, io vorrei solo dire che per intanto sulla formazione, sia la nostra associazione, con un rilascio di un patentino a tutti gli agenti domiciliari, patentino che è poi rilasciato tra l'altro da Evite, quindi anche da un'associazione che ha al suo interno di Consum, fa tantissimo per la formazione, quindi ci sono dei percorsi formativi ben definiti che si concludono con il rilascio di un patentino al recuperatore domiciliare. Percorsi formativi che partono da tutte quelle che sono le regole del settore, quindi in che orari si può andare, e tutte le attenzioni, il fatto che ai vicini non si può assolutamente chiedere nulla, è dal 2005 che esiste un regolamento in materia, ma sono anche formati su tutti quelli che sono gli aspetti. Benissimo, continueremo a seguirvi, Presidente, purtroppo mi stanno tagliando. Buona manifestazione per oggi, poi fateci sapere come va e sicuramente non mancheremo di ritornare su questo tema delicatissimo. Grazie a Pietro Giordano, a Gianni Amprino, Salvadanaio torna domani, a tutti buona giornata.